140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Rap e pop insieme, ai vertici delle classifiche Rage, con un album che porta il suo vero nome, Alex. Una scelta che non arriva a caso. Io vengo dal genere rap, che è un genere con abbastanza pregiudizi nei confronti della melodia nelle canzoni. In questo sono sempre stato un po' una mosca bianca, perché proprio nella costruzione delle mie canzoni c'è sempre stato parecchio cantato. Questa volta ho spinto l'acceleratore, quindi ci ho messo tutto me stesso in quel senso, e ne vado molto orgogliosa anche per quello che porta il mio nome di battesimo. Beh, allora diciamo subito che hai spinto talmente tanto l'acceleratore che hai fatto un featuring con Marco Masini, e io mi immagino i tuoi fan che sono un po' cascati dalla sedia. Ma in realtà, guarda, ho dei fan proprio perché fin dagli esordi ho iniziato questa cosa, facendo questa cosa in maniera un po' diversa rispetto agli altri del genere del rap dal quale provengo. Non l'hanno presa male, anzi, direi che non l'hanno presa per niente male. Io, Marco per me era un mito, perché nel momento in cui io non avevo proprio nessun potere decisionale sul CD player in macchina, perché avevo le braccia più corte e quindi decideva papà, mi piaceva ascoltare Marco Masini. Quindi io ho avuto un passaggio da bim bum bam a bella stronza, no? Una bella formazione. Sì, una formazione, diciamo, importante, piena di struggle. Io sono qua, il rumore della città è lo stesso, solo si sente parlare cinese più spesso. E ringrazio la mia età di sentirlo questo peso, perché la libertà ha il suo prezzo. Sempre ti ricorderai sempre delle parole sottovoce di tutti i giorni neri da buttare. Niente è la somma di niente, è il rumore che fa, il rumore che fa. Nonostante gli sforzi e tutta la mia presunzione, conservo con cura i ricordi e perdo il rancore. Un nulla ci separa dal cielo come un aquilone, c'è chi ancora sa sognare. Nella tua crescita ci sono momenti belli, momenti brutti, momenti tosti, e in questo disco li hai cantati tutti. Hai cantato della perdita di tua madre, hai cantato di una tua, non lo sospettavo, ma di un tuo passato di ragazzino che si sentiva inadeguato. Assolutamente sì. Ai confini col bullismo, forse in pieno bullismo. Abbastanza, pesavo 120 kg. Quindi, insomma. Dove li hai lasciati? Non ci sono più. Li ho lasciati sul Tapirulan e sul quartiere di casa, intorno al palazzo, nella periferia di Torino. Ho corso fino proprio a farmi a pezzi. E nel disco dico proprio una cosa che io penso vero: ho imparato a odiare me prima di odiare loro. Perché comunque un processo di crescita, anche di trasformazione, è sempre prima c'è un periodo di autodistruzione. Assolutamente. Tu canti. Spesso sei rivolto ai ragazzi di quell'età lì, e lo sai, è una responsabilità. Io la sento proprio per il tipo di argomenti che tratto. Io non ho il fattore cool per un pubblico molto giovane. Certe cose non le hanno proprio ancora vissute. Certo. E quello è il problema. Non è una scelta, io so scrivere solo in questo modo, però sento la responsabilità. Anche perché io scrivo, e dico sempre che chi scrive ha un'enorme fortuna, perché fa un processo di autoanalisi e poi arrivo fuori e vedo che altre persone la pensano come me, io dico wow, cioè io mi sento solo nel mondo, una barca in un bosco quando scrivo queste canzoni, per questo lo faccio. Passami il termine francese, non sono il solito stronzo da solo, cioè ce n'è altri come me, e questa cosa mi lascia senza parole. Quando è uscita Dove finisce il cielo, che è quella appunto che hai scritto per tua madre, hai dichiarato che ci sono stati moltissimi tag su Instagram di persone che volevano condividere con te le loro perdite. Sì. Credo che sia una cosa che faccia bene. Ci sentiamo. Allora, secondo me, io e questo anche perché poi penso che Alex un po' sia un concept album, no? Io penso che se ci guardiamo là fuori non abbiamo bisogno di Superman. Le fragilità, le nostre paure ci rendono più simili tra di noi, più esseri umani. Non è importante cambiare il mondo, perché poi se non c'è riuscito Bob Marley con Legend, come posso riuscirci io con Alex a cambiare il mondo? Io penso che basterebbe cambiare il modo con cui lo guardiamo. Noi possiamo fare la differenza, perché siamo speciali, ce lo dimentichiamo e basta. Io ci credo ancora che tu sia presente a tutta velocità. Sento meno lo shock, ma non mi abituerò mai. No, non mi abituerò. Dicono che sia così, la vita a un metro da qui, ma a tutta velocità. Sento meno lo shock. Dove finisce il cielo, ci siamo ancora un po'. Dove non passa il sole, come nella metro. Io che ho perso tempo, la voglia di sognare, non so dimenticarti per non dimenticare dove finisce il cielo. Forse ti rivedrò. Ti ho citato Instagram, tu hai una presenza molto importante in rete. Cos'è per te la rete e cos'è per te l'interazione in rete? È importante, è inutile dirselo, però in realtà non è tutto. Ci si fossilizza un po' adesso, perché anche magari le etichette discografiche, per via del periodo che stanno passando, non hanno più la possibilità di fare scouting, quindi... Quindi trovi già la promozione fatta in rete. Ed è importantissimo, però secondo me non è il metro. Cioè io dico questo, se il signor Smith & Wesson ha reso tutti gli uomini forti uguali perché ha inventato la pistola, Zuckerberg ha reso tutti i famosi uguali e ha dato il video a quei 15 famosi minuti di celebrità di Andy Warhol, no? Devi usarlo e devi centellinarlo in maniera giusta. Ecco, ovviamente è la prima cosa che hai tu coi fan, per me è un termometro. E quindi cosa ti dicono in questo periodo? Febbre altissima. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Rage. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.